anche le foche bevono Radio Wombat. Ovviamente Radio Wombat, Radio Wombat. This is a journey into sound. Radio Wombat. This is a journey into sound. Radio Wombat. This is a journey into sound. Buonasera, buonasera a tutte le persone in ascolto e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è una nuova puntata dei recuperi vinilici di Basement Records, per l'esattezza la 64esima puntata dei recuperi vinilici di Basement Records. Questa ovviamente era sempre la storica sigla della trasmissione Psyché Rock, il pezzo, un divertissement pop di Pierre Henry, un accademico di scuola francese della musique concrète, che con questo suo progetto Les Hyper Sound si è voluto un po' divertire con la musica, diciamo, tra virgolette pop. E poi diversi decenni dopo Matt Groening l'ha usata come sigla del suo Futurama, come già detto e come amo ripetere spesso all'inizio delle puntate di Basement Records. Però, come da uso e costume, cominciamo subito a ricordare gli indirizzi qui di Radio Wombat per mettervi in contatto con noi. Il sito è sempre radiowombat.net, la nostra frequenza in AM se vi trovate nei dintorni dell'area metropolitana fiorentina, in modulazione d'ampiezza, mi raccomando, sulle vostre radioline o sulle vostre autoradio, la frequenza è sempre 1359 1359, rigorosamente in modulazione di ampiezza. Il nostro indirizzo di posta è sempre postawombat@insiberia.net e i nostri canali social sono su Twitter, twitter.com/radiowombat, e su Facebook, facebook.com/radiowombat Firenze. Però ripartiamo appunto con questi recuperi vinilici di questa 64esima puntata di Basement Records. Continuiamo con gli ultimi ritrovamenti a 7 pollici, a 45 giri. Sarà tutta una trasmissione a 45 giri degli ultimi ritrovamenti risalenti ai tempi di Radio One Firenze e del Club 64, sempre qua di Firenze. Ringrazio DJ Stefanone che me le ha prestate appunto per fare queste puntate, ormai con questa ultima busta che mi ha ceduto, busta in senso di contenitori ovviamente. Siamo già, non mi ricordo se alla terza o alla quarta puntata che stiamo facendo, e sono rimasti i grandi classici o quelli diciamo un po' più pop, un po' più conosciuti, quindi quasi solo grandi successi stasera. E partiamo dal primo. L'autrice è conosciutissima, una grande star, Cher, che ora voi molto probabilmente ve la ricordate per l'ultime sue brani estremamente pop. Però iniziò la carriera agli inizi degli anni 60 con suo marito Sonny Bono, detto Sonny perché in realtà il suo vero nome era Salvatore Bono, autore, produttore, musicista e appunto storico marito e compagno di Cher. Questo singolo del 1971 che ci andremo adesso ad ascoltare è Gypsies, Tramps and Thieves, e tra l'altro era un momento di rilancio per la carriera di Cher dopo che avevano diviso artisticamente le loro carriere con appunto il marito, non so se già a quel tempo ex marito, appunto Sonny Bono. E questo album è l'album chiamato appunto come il singolo che ci andremo ad ascoltare, Gypsies, Tramps and Thieves, del 1971, e la sua carriera aveva bisogno un attimo di rilancio. Infatti l'etichetta discografica proprio per questo album decise di cambiare autore e produttore, che non era appunto più Sonny Bono, ma voleva tentare un attimo di rimescolare le carte per rilanciare la carriera di Cher. E questo è un pezzo molto interessante perché nonostante appunto la matrice di Cher che sia sempre abbastanza mainstream e abbastanza commerciale, questo è un pezzo sì pop però anche con delle belle cadenze folk, e soprattutto tratta dei temi non così scontati in una canzone cosiddetta popular, perché qui si parla appunto di una ragazza rom sedicenne nata appunto nel carro di uno spettacolo itinerante, e si trattano temi come il razzismo, la prostituzione e la gravidanza adolescenziale, che non erano proprio tematiche da tutti i giorni per un pezzo appunto cosiddetto commerciale. Però siamo agli inizi degli anni 70 e c'erano tutti altri parametri allora, e non possiamo fare altro che andarci ad ascoltare questo primo pezzo, questo primo 45 di recupero per questa puntata di stasera. Questo, come già ampiamente detto, è Cher con la sua Gypsies, Tramps and Thieves. Siete sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. Of a traveling show, my mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could, preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Money down. Picked up a boy just south of Mobile, gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. Their money down. I never had schooling, but it taught me well with its smooth southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. Oh, I haven't seen him for a while. Oh, she was born in the wagon of a traveling show. Her mama had to dance for the money they throw. Grandpa do whatever he could, preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps and thieves, we'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. E questa era Cher nel 1971 con la sua Gypsies, Tramps and Thieves. Ma andiamo ad un altro classicone di qualche anno precedente, infatti siamo alla fine del 1968. Loro sono i The Move, che era un gruppo fondamentalmente beat inglese, risale al novembre appunto del 1968. Questo è Blackberry Way. Magari il titolo non vi dirà moltissimo, però appena partirà la canzone, secondo me la riconoscerete istantaneamente dalle prime note. Questo era il primo gruppo, i Move erano stato il primo gruppo di Roy Wood, e tra l'altro questa Blackberry Way è stato sia un omaggio a Penny Lane dei Beatles, ma è stato anche uno dei primi esempi di influenza della psichedelia nell'ambito della musica pop da classifica. E questo appunto era un brano che era un po' la risposta a Penny Lane, più che ispirato direttamente da Penny Lane. Ovviamente è ispirato essendo una risposta, ma appunto l'avevano pensata come una answer song. E Roy Wood divenne poi ancora più famoso rispetto al suo gruppo The Move, perché proprio da questo gruppo nascerà il nucleo di quelli che poi diventeranno gli Electric Light Orchestra, un gruppo che sono considerati tra gli alfieri del rock orchestrale sinfonico britannico degli anni 70. Ora, questo pezzo è particolarmente famoso perché è stato reinterpretato da moltissimi altri negli anni a seguire, sia alla fine degli anni 60 che all'inizio degli anni 70, e ha avuto un grandissimo successo qua in Italia, perché venne ricantata in italiano, come era uso e costume a quei tempi, con i grandi successi inglesi e americani. Il testo era stato riadattato da Mogol, di questa Blackberry Way dei Move, ed era stato fatto cantare dai modenesi Equipe 84 di Gino Vannelli, con il titolo di Tutta mia la città. Non so se vi ricorda qualche cosa, fu un grandissimo successo in Italia nel 1969 e raggiunse addirittura il primo posto in classifica in Italia, appunto con l'interpretazione in italiano dell'Equipe 84, riadattata, appunto, il testo riadattato da Mogol. Però adesso noi ci andremo ad ascoltare il singolo originale dei The Move del novembre del 1968. Questa è Blackberry Way, loro sono i The Move, siamo sempre qua ai recuperi vinilici di Basement Records, questa naturalmente è Radio Wombat. inconfondibile ritornello, direi, fu proprio un grandissimo successo sia nella versione dei Move che qui in Italia, poi con la, come già detto, nella versione in italiano delle Kip 84. E adesso andiamo, siamo sempre in ambito abbastanza popular, ma qui andiamo proprio nel soft rock più soft degli anni 70. Ovviamente questi erano, questo recupero vinilico era un, è stato un recupero vinilico che veniva, come già detto, da Radio One Firenze, e questi erano i brani di, da classifica di quegli anni, e quindi c'è di tutto un po'. E adesso andiamo, come già detto, in ambito proprio ancora soft rock decisamente, con questo altro grande successo degli anni 70, di inizio anni 70. Questi sono i Breed, una band di, formata da David Gates, che scriveva anche le canzoni del gruppo, appunto. E questo singolo, Sweet Surrender, è un estratto dal, è il secondo singolo estratto dal loro quinto album Guitar Man, e che finì addirittura al primo posto in classifica nella classifica settoriale dell'Easy Listening, quindi sapete già dove stiamo andando a parare. Se la memoria non mi inganna, mi sembrava di avervi già fatto ascoltare Guitar Man dei Breed in una vecchia puntata di Basement Records. Bene, questo è il secondo singolo estratto, appunto, da questo che forse era il loro album più famoso della loro intera discografia. E quindi ascoltiamoci Sweet Surrender. Loro sono i Breed. Qui siamo sempre ai recuperi vinilici di Basement Records, e questa naturalmente è Radio Wombat. Take your nights. No one can lose when we turn the lights out. Tasting defeat, loving that sweet surrender. I'm giving up myself to you, but I didn't really lose at all. Thank you. Vi avevo avvertito che sarebbe stato ampiamente soft questo pezzo dei Breathe, però dai, ci stava a 50 anni e forse passa di distanza, vale sempre la pena riascoltare dei recuperi del genere. Il prossimo artista che ci andremo ad ascoltare è Todd Rundgren, è un artista americano attivo soprattutto dalla seconda metà degli anni 60. Iniziò la sua carriera nel 67 con la band psichedelica dei Neds, però nel 1970 iniziò la propria carriera solista. Rundgren era un polistrumentista, un cantante, un cantautore, un artista multimediale, ingegnere del suono, produttore, era un po' di tutto, infatti faceva quasi tutto da solo. Ora, detta così, sembra un po' brutto, e questo è un singolo estratto dal suo lavoro del 1972, un doppio LP intitolato Something Anything. E la particolarità di questo periodo di Todd Rundgren era che aveva iniziato a sperimentare gli effetti del Ritalin, cioè proprio dichiarato da lui nella sua biografia, che sapete, gli americani sono un po' fissati con i medicinali, per usare un eufemismo, e questo Ritalin era fondamentalmente un eccitante. E quindi in quel periodo, all'inizio degli anni 70, Rundgren era proprio in pompissima e ci racconta in generale nella sua biografia che proprio per via di questo medicinale era entrato in una fase artistica incredibile, in cui praticamente scriveva le canzoni in 20 minuti. Ora ci andremo ad ascoltare se questo sia stato un bene o un male, però insomma ha avuto anche un discreto successo. E ci racconta che appunto era un periodo in cui, e non facciamo fatica a immaginarcelo, lavorava, nel senso scriveva, componeva e produceva anche per più di 12 ore al giorno, tutti i giorni, a un punto tale che lo studio di registrazione dell'etichetta discografica non gli bastava più e si era costruito uno studio di registrazione anche casalingo, dove continuava a scrivere e a registrare anche una volta arrivato a casa. E appunto questo è un album che ha praticamente scritto, composto e arrangiato tutto praticamente da solo, e era arrivato a una tale produzione che poi aveva scritto e composto talmente e registrato talmente tanti nuovi brani che in quel 1972 fece uscire non un album ma un doppio album, appunto con il nome di Something Anything, che poi completerà alla fine andandolo a registrare per la masterizzazione anche con l'aiuto di session man e di turnisti, appunto per completare la registrazione, e appunto venne fuori un doppio album. E adesso appunto questo è il singolo che si chiama I Saw the Light, estratto appunto da questo album di cui abbiamo parlato fino adesso. Andiamoci ad ascoltare che effetti ha prodotto il Ritalin sulla composizione di Todd Rundgren. Buon ascolto, e qui siete sempre ai recuperi vinilici di Basement Records. Questa è Radio Wombat. Oh, Dai, diciamo che il Ritalin non ha fatto dei brutti effetti a Todd Rundgren. E andiamo al prossimo pezzo, anzi, più che al prossimo pezzo, al prossimo sette pollici. E ritorniamo in ambito abbastanza soft rock con questo duo che sono Seals and Croft. Questo è un estratto dal loro secondo album del 1972. L'album era Summer Breeze e anche questo singolo contiene appunto la canzone che dà il titolo all'album. Sicuramente sì, siamo in ambito, come già detto, del soft rock da classifica, però delle discrete influenze folk anche qua, soprattutto grazie al marchio di fabbrica del duo, che era l'uso del mandolino. Infatti era lo strumento suonato da Dash Crofts, e quindi questa particolarità di questo strumento inusuale, diciamo, in ambito pop soft rock, gli dava un po' queste influenze folk e anche un po' fricchettone, via, diciamolo. E quindi non era proprio il classico poppettone o pezzo puramente da classifica come siamo abituati ad intenderlo oggi. Però appunto non ci andremo ad ascoltare Summer Breeze, che dà il titolo all'album, tra l'altro canzone che verrà anche coverizzata dagli Isley Brothers 2 anni più tardi, nel 1974, ma il suo più sconosciuto lato B di questo sette pollici, che si intitola East of the Ginger Trees, e che tra l'altro questo lato B non trovò neanche posto nell'album poi pubblicato, uscì solamente su singolo, e ce l'andiamo ad ascoltare adesso questa B-side di Seals and Croft, 1972, i vinili di recupero di Basement Records. Siete sempre qui su Radio Wombat. Go east of your dreaming farm, let peace and silence spin your yarn. What harm can befall thee in yon wilderness aglow? Go on, east of ginger trees, go soft these be off and wander in yon wilderness of clove. Immerse themselves in clothes. Go on toward the crimson shore, beyond this life of metaphors, where doors of understanding's house decorates he them with clove. Questi erano Seals and Crofts con questa East of the Ginger Trees del 1972. Ma adesso saltiamo la staccionata del soft rock ed andiamo con un po' di grandi classici recuperati. E il primo di questi grandi classici, è veramente un classicone, è Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye, che è una canzone del 1969 scritta e registrata da Paul Lyca, Gary De Carlo, Dale Fleischhauer, e attribuita a una band allora totalmente fittizia, quindi era inventata, che si erano fatti chiamare Steam. In realtà Lyca, De Carlo e Fleischhauer avevano scritto questo brano, questo pezzo, in una versione shuffle blues nei primi anni 60, quando erano ancora membri di un gruppo di doo-wop chiamato i Glen Woods. Poi, quando il gruppo si sciolse, Lyca e Fleischhauer andarono a New York per cercare di trovare delle scritturazioni, insomma, per proseguire la loro carriera. E nel 1969 registrarono un demo per la Mercury Records a New York, e Lyca proprio come produttore del demo. E i singoli che portarono impressionarono particolarmente i dirigenti dell'azienda, che vollero pubblicarli tutti come singoli, avendo bisogno di un lato dei lati B, appunto, per pubblicare questi singoli. Allora decisero di riesumare appunto dal catalogo degli allora Glen Woods quella che allora avevano chiamato e registrato come Kiss Him Goodbye. E questa Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye fu un grandissimo successo e raggiunse addirittura il numero uno negli Stati Uniti per 2 settimane alla fine del 1969, a dicembre per essere precisi. E tra l'altro, oltre a raggiungere la numero una in classifica, nella classifica generalista di Billboard, riuscì a raggiungere anche la top 20 della classifica specialistica Soul. E nota a margine di questo pezzo, che appena partirà lo riconoscerete penso istantaneamente, 14 anni dopo, nel 1983, il girl group inglese delle Bananarama ne pubblicò una cover, però appunto la versione straconosciuta e strafamosa è proprio questa di questi fittizi Steam del 1969, che adesso ci andremo ad ascoltare. E appunto questo è il prossimo vinile di recupero di Basement Records, sempre qui a Radio Wombat, non ve lo dimenticate mai. Erano gli Steam con questo grande classico di fine anni 60. Rimaniamo nello stesso anno, rimaniamo sempre nel 1969, ma per un attimo accantoniamo i grandissimi successi di quell'anno e concentriamoci su questo singolo piuttosto oscuro, direi. Non tanto per la tipologia di suono proposto, quanto per la pochezza di informazioni che sono riuscita a raccogliere su di esso. E risale sempre a quella fine del 1969, esattamente all'ottobre del 1969, ed è firmato dal chitarrista scozzese Jim Kelly. A dire la verità è un bel classic rock arcigno di matrice chitarristica con un bel coro che sembra quasi soul. È pubblicato sull'etichetta Deram E probabilmente doveva aver riscosso un certo successo o quantomeno visibilità qui in Italia, se no non si spiegherebbe come mai fosse finito appunto in questa raccolta di 7 pollici di Radio One, ma probabilmente a livello storico deve essere un po' sparito in mezzo a quelle decine e decine di capolavori che uscirono in quell'anno che chiudeva il decennio degli anni 60. E allora c'è poco da dire, ma c'è abbastanza da ascoltare, e quindi andiamoci ad ascoltare questa Mary Mary del chitarrista scozzese Jim Kelly, 1969, Basement Records, Radio Wombat. I'm waiting for you. E questa era Mary Mary del chitarrista scozzese Jim Kelly nell'ottobre del 1969. E adesso rimaniamo più o meno nello stesso periodo, se riesco a recuperare la data, che no, non la vedo. Comunque, se la memoria non mi inganna, si dovrebbe essere sempre intorno a quegli anni lì. Questa è un'edizione made in Germany di questo brano che ci ascolteremo come prossimo singolo qua sul giradischi della regia di Radio Wombat, e sto parlando del gruppo pop rock dei Blue Mink, gruppo inglese multirazziale che ebbe un discreto successo appunto a cavallo tra la fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, riuscendo a collezionare una ventina di successi arrivati nei primi posti nelle classifiche inglesi di quegli anni. E questo, appunto, come non mi ricordavo, è un pezzo del 1969 e in realtà è il loro singolo di debutto dei Blue Mink, chiamato Melting Pot, che fu visto proprio ed era una dichiarazione contro l'intolleranza razziale. Infatti la band britannica era guidata dalla cantante nera americana Madeline Bell, e questo singolo di debutto raggiunse addirittura la terza posizione nella classifica dei singoli inglesi del 1969. In realtà, ora tralascio tutta la polemica che venne fuori per questo disco, che venne tacciato appunto in realtà di razzismo, mentre se lo ascoltate e poi se andate a vedere la formazione dei Blue Mink, lo era tutt'altro. Però appunto venne fuori una querelle in quegli anni, e molte stazioni radio, specialmente americane, chissà come mai, proviamo a immaginarcelo, decisero di non passarlo perché conteneva alcuni termini che secondo i censori delle radio americane, ma in realtà anche una parte delle radio britanniche, sarebbero stati offensivi nei riguardi di certe minoranze, cosa ovviamente che molto probabilmente, a vederlo con 50 anni e passa di distanza, era probabilmente solo un escamotage per non far passare questo brano di questa band multirazziale, che in realtà si prefiggeva tutt'altro se non appunto, come dice il titolo, il melting pot, l'integrazione razziale. E quindi insomma è giunto fino a noi, anche se una parte delle stazioni radiofoniche tradizionaliste e conservatrici di quegli anni, che noi schifiamo, decise di non mandarlo in airplay, e invece noi con 50 anni di distanza è stato recuperato e ve lo proponiamo subito. Questi sono i Blue Mink con il loro singolo d'esordio del 1969, Melting Pot. Questi sono i vinili di recupero di Basement Records, e naturalmente siete sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. A pinch of white man, carpet up in black skin. Add a touch of blue blood and a little bitty bit of red Indian blood. Curly black and king kiss mixed with yellow chinkies. If you lump it all together, well, you got a recipe for a get along scene. Oh, what a beautiful dream. If it could only come true, you know, what we need is a great big melting pot, big enough to take the world and all it's got, and keep it stirring for 100 years or more, and turn out coffee-colored people by the score. And the gurus, you got the Beatles or the sun god. It's true. Well, it really doesn't matter what religion you choose. No, no, no. Make a lady pay for the Mrs. Graceful. You know the living could be tasteful. Ah, we should all get together in a loving machine. I better call up the queen. It's only fair that you know what we need is a great big melting pot. I'm big enough to take the world and all it's got. I keep it stirring for 100 years or more. And turn out coffee colored people. Big enough to take the world and all it's got, and keep it stirring for 100 years or more. And turn out coffee-colored people by the score. Yeah! Yeah! What we need is a great big melting pot. Big enough, big enough, big enough to take the world and all it's got, and keep it stirring for. E questa appunto era Melting Pot dei Blue Mink, 1969. E adesso ci andremo ad ascoltare un altro singolone di un artista che abbiamo già incontrato nella precedente puntata dei recuperi vinilici di Basement Records, ovvero Joe Simon con un'altra sua bomba di purissimo soul. E sono andato a ricontrollare, ci eravamo ascoltati nella precedente puntata Glad to be your lover, ma per chi si fosse perso appunto l'ultima puntata di Basement Records, che ricordo potete andare tranquillamente a recuperare appunto nell'area podcast di radiowombat.net, ci sono proprio su trasmissioni, andate a vedere, c'è proprio tutti i podcast di ogni singola trasmissione, e quindi anche se ve la siate persa, niente paura, c'è tutto sul sito che potete andarlo a recuperare. E quindi, per chi si era perso la precedente puntata di Basement, ricordo che Joe Simon era nato in Louisiana e, come molti suoi contemporanei afroamericani, iniziò a cantare nelle chiese battiste e, nel caso del nostro, insieme ad un vero e proprio peso massimo del soul come Sam Cooke. E nel 1959 passò alla musica cosiddetta secolare, e 10 anni dopo, nel 1969, la sua composizione My Special Prayer era stata un piccolo successo negli Stati Uniti, sia per lui che per Percy Sledge, ed arrivò al numero uno nella classifica olandese, nella versione però di Percy Sledge, trascorrendo appunto in testa alla classifica addirittura 32 settimane. E sotto l'incoraggiamento di uno dei produttori della Polydor Records, Joe Simon si trasferì sotto l'etichetta Spring Records, che ovviamente era distribuita dalla Polydor, nel 1970, e appunto, essendo giunti in questa major, gli venne affiancata una coppia di autori veramente straordinaria, come già avevamo detto nella precedente puntata, la coppia di Kenny Gamble e Leon Huff, due veramente pesi massimi della scrittura rhythm and blues del paese, dell'etichetta e di tutto il genere proprio nel senso generale del termine. Il team ottenne un primo grande successo rhythm and blues raggiungendo il numero 3 nel 1971 con la canzone che tra poco ci andremo ad ascoltare, ovvero Drowning in the Sea of Love, un altro successo che raggiunse addirittura la prima posizione in classifica nell'estate del 1972 con Power of Love. Poi Joe Simon continuò a pubblicare successi rhythm and blues come con Pool of Bad Luck, che era il lato A del singolo che ci eravamo ascoltati la volta precedente, ovvero Glad to Be Your Lover era la B-side di Pool of Bad Luck, appunto. E poi, insomma, se ne aggiunsero svariati altri. Fino al 1975, dove arrivò per l'ennesima volta al numero uno della classifica rhythm and blues. La popolarità di Joe Simon esplose ulteriormente dopo la scrittura, la produzione della colonna sonora del film Cleopatra Jones del 1973, e dopo così tanto parlare adesso andiamoci ad ascoltare questo singolone soul rhythm and blues di Joe Simon con questa Drowning in the Sea of Love. Siete sempre qui ai recuperi vinilici di Basement Records, questa è Radio Wombat. Down one time, and I've been down two times, but now I'm drowning in the sea of love. Let me tell you all about it. I've been out here so very long, I've lost all of my direction, baby. When you came my way, Lord, I had found my protection, but a strong wind came into my life and surely took me by surprise, and I can't seem to control these tears. right now I'm drowning, drowning in the sea of love. Listen to me, baby, I'm depending on you. Oh, I love navigation, but now you're gone and deserted. Can't you see that I'm in desperation? I'm in the middle of a bad love. Ooh, yeah, I just ain't ready for it. I look around, all I can see is water. Che bomba di Joe Simon. Questa era appunto Drowning in the Sea of Love. Ma restiamo in ambito soul con il prossimo singolone, che in realtà proprio, anzi userei un altro superlativo, proprio singolissimo, perché stiamo parlando di un vero, un autentico classicone e di un vero peso massimo della musica nera in generale. Questa canzone non avrebbe neanche bisogno di presentazioni, in realtà, da quanto è famosa. Sto parlando della leggendaria What's Going On di Marvin Gaye. E allora parliamo dell'ispirazione da cui nacque questa canzone, che si dice sia stata in realtà ispirata da un altro, da un membro dei Four Tops, da Obie Benson, che dopo che lui e il tour bus dei Four Tops arrivarono a Berkeley nel maggio del 1969 ed assistettero alla brutalità e alla violenza della polizia nel People's Park della città durante una protesta tenuta da attivisti contro la guerra in quello che in seguito è stato chiamato come Bloody Thursday. Sconvolto dalla situazione, Benson disse all'autore Ben Edmonds, dopo che aveva visto tutto questo: che cosa sta succedendo qua? Perché mandiamo i nostri ragazzi così lontano dalle loro famiglie a morire all'estero? Perché aggrediscono i propri figli nelle strade? E lo stesso Marvin Gaye era stato appunto ispirato lui stesso dai mali sociali commessi negli Stati Uniti in quegli anni, citando appunto la rivolta di Watts nel 1965 come un punto di svolta della sua vita, in cui si chiedeva come, con il mondo che esplode intorno a me, come posso continuare a cantare canzoni d'amore. E durante le conversazioni telefoniche con il Deus Ex Machina e proprietario della Tamla Motown, Berry Gordy, Gay aveva detto proprio questo a Ben Ricordi, che voleva registrare solo un album di canzoni di protesta, e a cui Gordi dette la famosissima risposta: Marvin, non essere ridicolo, perché ovviamente Gordi pensava solo ai soldi sonanti che gli stavano arrivando in tasca dalle canzoni d'amore di Marvin Gaye, ma poi appunto sappiamo tutti come è andata a finire. E adesso appunto ascoltiamoci questo capolavoro in perituro che è stato What's Going On di Marvin Gaye. Sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records. Questa è Radio Wombat. Dove se no? Beh, pezzone clamoroso di Marvin Gaye, un grandissimo classico. E di classico in classico, anche il prossimo gruppo, devo dire che più classico, non si può, infatti taglierei abbastanza corto, perché, stiamo parlando dei Doors. Ormai, appunto, come dicevo, siamo partiti dal soft rock da classifica e poi stiamo finendo con tutti, finendo, siamo più o meno a metà, a dir la verità, dei vinili che ho selezionato per stasera. E quest'altro gruppo, cosa vogliamo dire dei Doors, appunto? Direi che non hanno bisogno di tante presentazioni. Questo è un singolo che proviene dal loro quarto album, uscito nel luglio del 1969, e che era The Soft Parade, appunto. Era un periodo da cui venivano, ok, da dei tour estenuanti dopo il successo esagerato e planetario di Waiting for the Sun. Stavano passando un periodo di tour massacranti a giro per tutto il mondo. Ormai Jim Morrison era diventato tutto quello che noi ben sappiamo, un sex symbol, un poeta, e più, chi più ne ha più ne metta. E era talmente arrivato a un punto di non ritorno che addirittura stava ventilando, dopo quel Waiting for the Sun, di lasciare i Doors, e soltanto appunto John Densmore, il batterista, lo convinse a continuare con la strada insieme. E infatti produrranno insieme questo The Soft Parade, uscito nel luglio del 1969. Poi tutti sappiamo come è andata a finire, non starò certo qui a ricordarvelo. E non sarà nell'ultimo né il penultimo album dei Doors, e la fine del gruppo avverrà solamente in quel bagno di Parigi nel 1971, per i motivi che tutti sappiamo. E questo singolo, in realtà il lato A, è l'arcinoto singolo di quell'album, ovvero Touch Me. Noi non ce ne andremo ad ascoltare Touch Me, ma ci andremo ad ascoltare il lato B, ovvero Wild Child dei Doors, in quella metà del 1969, e quindi via di lato B, grande classicone, che altro aggiungere, ascoltiamocele e basta. Loro sono ovviamente i The Doors. Questa è Wild Child, siamo sempre ai recuperi vinilici di Basement Records, Radio Wombat, non ve lo dimenticate mai. Where hunger and the hollow idol's eye. Wild child, full of grace, savior of the human race, up to face, up to face, up to face. You remember when we were in Africa? E questa era appunto Wild Child dei Doors. E adesso un altro pezzone, un altro di classico in classico, appunto. Aspettate, mi alzo un goccino. Eccoci qua. Mi sentite meglio? Forse sì, forse no. Forse uguale. Scusate. Appunto, dicevamo... un altro pezzone di un altro storico gruppo inglese che in realtà nacque come una costola dei più volte citati John Mayall and Blues Breakers, più volte citati qui a Basement Records e forse anche a Tonight Alive, ora che ci penso. Comunque, appunto, i Fleetwood Mac si formarono nel luglio del 1967 a Londra come una costola della leggendaria blues band britannica di John Mayall and the Blues Breakers. Infatti Peter Green aveva sostituito nei Blues Breakers niente po' di meno che Eric Clapton, dando il suo importantissimo contributo nello storico album di John Mayall, ovvero A Hard Road. E poi entrando fattivamente all'interno del gruppo dei Blues Breakers, quando John Mayall arrivò al dunque di dover sostituire Ainsley Dunbar alla batteria, suggerì a John Mayall di fare entrare Mick Fleetwood come membro effettivo dei Blues Breakers, e in quel momento i Blues Breakers, appunto a quella seconda metà degli anni 60, erano allora composti da Peter Green e da John Mayall alle chitarre, Mick Fleetwood alla batteria, John McVie al basso. E tra l'altro John Mayall fece anche regalò, diciamo tra virgolette, delle session di registrazione al gruppo, e ritrovandosi insieme Fleetwood, McVie e Peter Green iniziarono registrando le loro prime 5 canzoni. E da lì diciamo che nacque un po' il primo embrione dei Fleetwood Mac, e appunto da trovandosi così bene con questi compagni, subito dopo Peter Green suggerì a Mick Fleetwood di formare una nuova band. La coppia voleva McVie al basso e chiamarono appunto la band Fleetwood Mac in onore per vedere di attirarlo, ma lì per lì McVie scelse di continuare con i Blues Breakers, ma da lì a poco poi entrò anche lui effettivamente in quelli che poi si battezzarono a tutti gli effetti Fleetwood Mac. Però al di là di questa lunga premessa, appunto poi nacquero i Fleetwood Mac e seguirono due album di grande e classico blues britannico. E alla fine del 1968 arriviamo al singolo che ho tra le mani, ovvero Albatross. La composizione e il suo arrangiamento suggeriscono una rilassante ambientazione marina con i piatti che imitano il suono delle onde. Infatti Mick Fleetwood suonava la sua batteria usando le bacchette dei timpani per renderne un suono a tutti gli effetti smorzato. E un assolo sognante della chitarra di Peter Green aggiungeva appunto questa pace oceanica appunto che voleva dare. All'aggiunta in quel momento alla band si aggiunse anche un altro chitarrista, il 18enne Danny Kirwan, che era un ottimo solista di chitarra. In quel momento nei Fleetwood Mac c'era anche un grande chitarrista slide come Jeremy Spencer, che però non era generalmente propenso a lavorare insieme a Peter Green, non se la intendevano poi troppo, infatti non si era sentito capace di realizzare l'effetto che Peter Green desiderava per quel pezzo. E infatti in quell'occasione fu sostituito da Kirwan, e così Green riuscì a completare il pezzo e a registrarlo senza la presenza di Jeremy Spencer, e questi sono i risultati che ottennero appunto per questa Albatross, uno dei grandi successi dei primi Fleetwood Mac. Qui siamo nel 1968, siete sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questi sono i vinili di recupero di Basement Records. Questa era la sognante Albatross dei Fleetwood Mac del 1968. E adesso andiamo da degli altri grandissimi classici. Stiamo parlando dei Creedence Clearwater Revival, di cui ci ascolteremo addirittura due singoli. I Creedence Clearwater Revival, appunto, anche loro sono proprio degli emblemi del classic rock, direi. Una band formata a El Cerrito, in California, che è formata dai fratelli John e Tom Fogerty, rispettivamente alla chitarra solista e alla chitarra ritmica, e dal bassista Stu Cook e dal batterista Doug Clifford. In realtà, quelli che poi si chiameranno Creedence Clearwater Revival suonavano già insieme dal 1959, prima con il nome di Blue Velvets e poi con in seguito cambiarono nome in Gollywogs, e prima e poi effettivamente Gollywogs forse non gli piaceva un granché neanche quello, e alla fine nel 1967 decisero definitivamente per il nome di Creedence Clearwater Revival. Questo primo singolo che ci andremo ad ascoltare è Green River, una canzone del luglio del 1969 che anticipava di un mese l'uscita del loro terzo album omonimo. La canzone era basata sui ricordi del luogo di vacanza dell'infanzia dei fratelli Fogerty, e appunto essendo il momento in cui uscì il singolo, il luglio del 1969, sappiamo tutti che un mese dopo il gruppo si sarebbe esibito sul palco di Woodstock dopo i Grateful Dead. E quindi andiamoci ad ascoltare questa Green River dei Creedence Clearwater Revival del 1969. Siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records. Questa è Radio Wombat. E questa appunto era Green River dei Creedence Clearwater Revival. E nel settembre dello stesso anno uscì un altro ancora più famoso loro singolo. Infatti Fortunate Son ben presto divenne un autentico inno del movimento contro la guerra e un simbolo espressivo dell'opposizione, della controcultura al coinvolgimento militare negli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. E la canzone, che dire, cioè questa canzone è storicissima, è famosissima, è stata ampiamente descritta in qualunque rappresentazione della cultura pop e nella descrizione dell'opposizione del movimento alla guerra del Vietnam. E quindi, cioè, è inutile stare a ribadire sempre le stesse cose che probabilmente già ampiamente saprete, però ho visto che stiamo parlando di un gruppo veramente del cosiddetto classic rock, perché non andare a ricercare la loro definizione, che si trova appunto sotto il loro nome all'interno della Rock and Roll Hall of Fame. E Creedence Clearwater Revival erano progressisti e anacronistici allo stesso tempo, un impenitente ritorno all'era d'oro del rock and roll. Hanno rotto i ranghi con i loro coetanei sulla scena progressiva e psichedelica di San Francisco. Il loro approccio era semplice e senza compromessi, fedele alle origini della classe operaia dei membri della band. Il termine roots rock non era ancora stato inventato quando i Creedence sono arrivati, ma in sostanza loro lo hanno definito, traendo ispirazione da artisti del calibro di Little Richard, Hank Williams, Elvis Presley, Chuck Berry e gli artigiani soul della Motown e della Stax. In tal modo i Creedence Clearwater Revival sono diventati i portabandiera e i principali celebranti della musica americana moderna. Questa era la citazione dalla Rock and Roll Hall of Fame. E appunto adesso non possiamo fare altro che andarci ad ascoltare la celeberrima Fortunate Son dei Creedence Clearwater Revival, qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. E dove se no? Made to wave the flag, cool the red, white, and blue. che dire, classico dei classici proprio. E da un classico dei classici a un'altra band che direi non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Infatti stiamo per mettere sul piatto il prossimo singolo e gli autori di questo 45 giri sono niente po' di meno che gli Who. Che dire degli Who? Sono stati tra i più grandi, tra le più grandi band che la Terra d'Albione ci abbia regalato in ambito del rock, inteso appunto come macrogenere. Sono stati una band simbolo del movimento mods che ha imperversato in Inghilterra e non solo per una buona parte degli anni 60 e degli anni 70. E appunto questo singolo che stiamo per ad ascoltare è della fine degli anni 60, esattamente del 1969, e in realtà era una B-side di uno dei loro brani più famosi, ovvero Pinball Wizard. Questa è la seconda parte in realtà di Dogs, infatti è Dogs Part 2. E in realtà non era la continuazione dell'omonima canzone, ma proprio uno strumentale e a sé stante. E che strumentale, tra l'altro, di che strumentale stiamo parlando? Infatti questa Dogs Part 2, un po' come Moby Dick degli Zeppelin per John Bonham o Todd per Ginger Baker dei Cream, questa Dogs Part 2 è la quintessenza delle straordinarie capacità dietro le pelli di un altro grandissimo batterista della storia del rock, ovvero di quel geniaccio di Keith Moon. Questi sono gli Who. Questa è Dogs Part 2, 1969, ai vinili di recupero di Basement Records. Questa è Radio Wombat, non ve lo dimenticate. Questa era Dogs Part 2, con l'esibizione del grande Keith Moon dietro le pelli degli Who. E appunto, da grandissimi a altri grandi, anche il prossimo 7 pollici sicuramente appartiene altrettanto alla storia del rock. Infatti si tratta della celeberrima Born to be Wild, scritta da Mars Bonfire e portata all'imperitura memoria dalla versione degli Steppenwolf, contenuta anche nella colonna sonora dell'altrettanto famosissimo film di Peter Fonda e Dennis Hopper, Easy Rider. Ma non è questa la versione che ci andremo ad ascoltare. Infatti, quella che stiamo per mettere sul piatto è una cover, sempre del 1969 però, di un grande del soul e del rhythm and blues come Wilson Pickett, che la scelse per darne una sua versione nell'album di cover su Atlantic Records chiamato Hey Jude. Provate un po' a indovinare quale altra cover aveva fatto su quell'album, se appunto fate caso al titolo. Però, a parte gli scherzi, erano tutte cover reinterpretate da Wilson Pickett di grandi successi di quel periodo. E anche Wilson Pickett, appunto, come tutti gli ultimi citati, meriterebbe ovviamente una puntata a sé stante. Nativo di Detroit, ammiratore di Little Richards, si fece le ossa nel gruppo gospel dei Violiners per poi passare alla musica secolare con i Falcons, scrivendo la storia del nascente movimento soul. Iniziò la sua carriera solista nei primissimi anni 60, per poi arrivare a registrare il suo capolavoro del 1965 con Midnight Hour, e direi che il resto è storia, appunto. E adesso ascoltiamoci la sua versione da Soul Brother di Born to be Wild. Questa è Wilson Pickett, Born to be Wild, qui a Basement Records, naturalmente sulle frequenze di Radio Wombat. E dove se no? Like a true nature child, we were born to be wild. questa era l'infuocata versione rhythm and blues di Born to be Wild degli Steppenwolf, reinterpretata appunto da Wilson Pickett. E ecco, il prossimo 45, il prossimo 7 pollici che ci andremo ad ascoltare, per quanto mi riguarda, è veramente un 45 giri speciale. Infatti, quando ho visto che era contenuto all'interno di questo sacchetto, letteralmente ritrovato in una cassa panca, anzi neanche in una cassa panca, è nascosto in fondo ad un armadio di casa dei miei genitori, mi sono venuti luccicone agli occhi, non ve lo nascondo. E infatti, a mia memoria, questo è stato uno dei miei primi incontri che ricordi con la musica funk, naturalmente escludendo James Brown e i Funkadelic Parliament di George Clinton. E non finirò mai di ringraziare Stefanone per avermi fatto conoscere fin dalla tenera età questo pezzo del 1971. Questa canzone l'avrò ascoltata veramente migliaia e migliaia di volte, eppure non riuscirà mai a stancarmi, ad annoiarmi. Questo pezzo di storia che ho tra le mani, appunto, è il 45 giri, è il 7 pollici di Funky Nassau dei Beginning of the End, appunto del 1971 in versione originale Atlantic. E i Beginning of the End erano un gruppo funk di Nassau, delle Bahamas, e il gruppo si formò nel 1969 ed era composto dai tre fratelli Mannings, più c'era un bassista e un chitarrista, e in più per questo pezzo erano stati completati dalla sezione di fiati dei Funky Nassau Horns. Pubblicarono appunto questo album, pubblicarono l'album intitolato Funky Nassau nel 1971 su Alston Records, che era una sussidiaria della Atlantic, e il brano Funky Nassau divenne un singolo di successo negli Stati Uniti, raggiungendo il numero 15 della classifica di Billboard e la posizione numero 7 della classifica specialistica di Rhythm and Blues, sempre di Billboard, che appunto era la classifica ufficiale degli Stati Uniti di quegli anni. E quindi che fare, non tergiversiamo oltre e ascoltiamoci questo grandissimo pezzo, che è diviso in due parti, e come potrete ben immaginarvi non potrò esimermi da farvele ascoltare entrambe, però datemi appunto il tempo tecnico di girarvi il 7 pollici, perché appunto la prima parte è sul primo lato, la seconda parte è sul secondo lato. Questi sono i Funky Nassau, i Beginning of the End con Funky Nassau, parte 1, parte 2. Naturalmente qui, ai vinili di recupero di Basement Records, questa è Radio Wombat, Funky Nassau. A tutto fuoco. Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. We've got a dug on beat now, we're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll, Nassau's got a whole lot of soul. Feel alright. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdo. People doing their own thing, don't care about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's got soul now. Oh yeah. And we've got a doggone beat now. We're gonna take care of business too. Listen to the drummer playing his beat. Listen to the bass man. Go get that same groove every. Listen to the guitar. Give that soul some tune. Feeling good. The horn gonna bring it on home to you. Ain't a funky now. Good God. London town is too doggone cold. Yeah. Nassau's got sunshine, and this you all know. Yeah. But we've gone funky, and we got some soul too. All right. Funky Nassau. Funky Nassau. Appunto, datemi il tempo tecnico di girarvi il 7 pollici, arriverà anche la seconda parte. Eccola. Parte è molto breve, meno di 2 minuti, però sicuramente valeva la pena di sentire anche questa seconda parte, che senza dubbio è meno conosciuta e meno suonata della sua prima parte, che è il grandissimo classico della musica funky. E adesso andiamo all'ultimo gruppo, ma non l'ultimo brano dei recuperi vinilici di stasera di Basement Records. Infatti ci ascolteremo Visto sono anche brevi, quindi direi che ne vale assolutamente la pena di ascoltarli tutte e tre, visto che ho ben due singoli qua a disposizione per farveli sentire e per concludere in bellezza questa puntata. E stiamo parlando degli Equals. E i membri del gruppo degli Equals si incontrarono a Hornsey Rise nel nord di Londra, dove Grant, Lloyd e Hall erano compagni di scuola. Nel 1965 Hall suggerì di formare una band e quindi nacquero gli Equals, con John Hall alla batteria e il mitico Eddie Grant alla chitarra solista e a tutta la scrittura dei brani. Tutti i brani degli Equals furono scritti da Eddie Grant, Pat Lloyd alla chitarra ritmica, Dave Gordon alla voce, il fratello Lincoln Gordon al basso, e appunto nacquero gli Equals. All'inizio si esibirono principalmente a Londra, dove si guadagnarono un discreto seguito con la loro energia esplosiva e uno stile ben definito che riusciva a fondere insieme il pop, il blues, il rhythm and blues, e insieme ad elementi nuovi per l'epoca, come provenienti dalle altre regioni del Commonwealth, come lo ska e il blue beat. Artisti rhythm and blues e soul come Bo Diddley, Salomon Burke e Wilson Pickett scelsero gli Equals come gruppo d'apertura dei loro concerti, quindi anche gli artisti, i loro colleghi, rimasero molto colpiti da questa nuova formula che gli Equals proponevano nella Londra di metà degli anni 60. Sono ricordati, scusate un secondo che ho perso la maniglia, come si sarebbe detto a pallacanestro. E appunto gli Equals inizialmente si esibirono a Londra e si guadagnarono un notevole seguito con la loro energia, diciamo quasi illimitata, come già detto, e sono ricordati soprattutto per il loro primo singolo da milioni di copie, Baby I Come Back. Sebbene abbiano avuto molti altri successi in classifica nel Regno Unito e nel resto dell'Europa, sono ricordati come il primo grande gruppo rock interrazziale del Regno Unito, una delle poche band razzialmente miste dell'epoca. Il primo pezzo che ci andremo ad ascoltare è Softly, Softly. Questi sono gli Equals. Questi sono i recuperi vinilici di Basement Records. As you see. Softly, softly, yeah. Softly, softly. E questa appunto era Softly Softly. Il disco non ha retto benissimo i segni del tempo, nel senso non in quanto della musica in sé per sé, ma proprio fisicamente il vinile, intendo. È abbastanza segnato dal tempo, però va bene così, perché essendo appunto vinili di recupero è giusto che sia anche così. Non sempre possono essere perfetti dopo 50 anni di storia, appunto, questi vinili, questo 7 pollici degli Equals, gli manca proprio letteralmente un pezzo. Il bello di Basement Records è anche questo, sono proprio per questo vinili di recupero, non è che viene detto così tanto per dire, per fare colore della trasmissione, sono veramente recuperati da chissà dove e da chissà quando, quindi appunto è giusto che sia anche così. È per quello che Softly Softly e il prossimo brano che ci ascolteremo partiranno non proprio dall'inizio della canzone, ma da canzone già iniziata, proprio per evitare che la puntina possa saltare sulla sbeccatura del vinile. Però a parte questi ragguagli tecnici, tornando agli Equals, gli Equals sono anche quel gruppo che scrisse sempre Eddie Grant, tra l'altro, anche Police on My Back, poi divenuta un cavallo di battaglia che tutti conosciamo dei Clash, ma in realtà la versione originale era degli Equals. Ma facciamo un passo indietro nel 1968 e adesso ascoltiamoci un altro dei loro primissimi singoli, ovvero Lauren and Hardy. Loro sono sempre gli Equals, e qui siete sempre ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. E dove se no? Come non detto, abbiamo beccato subito la sbeccatura, era andato troppo vicino. Basement Records! She gets so jealous when it gets up to sleep. I love the life, but it's up to me. They want to touch me, they want to love me. They see a man that cannot be me. Saturday morning, pictures are clean. They little children all come to see me. They want to touch me, they want to love me. I always give them pictures of me. E vabbè, giusto così, volevo fregare il vinile, invece il vinile ha fregato me, e appunto la puntina, essendo stata messa troppo vicina alla sbeccatura per cercare di farvi ascoltare più brano possibile, alla fine è stato proprio il vinile che ha fregato il qui presente. Ma si sa, va bene così, e sono vinili di recupero proprio per questo. E l'ultimo per modo di dire, appunto, brano di stasera, ma grandissimo successo e forse uno dei brani più famosi degli Equals dopo Baby Come Back, è anche l'ultimo grande successo della loro carriera. Infatti siamo nel 1900, è stata fatta uscire proprio all'inizio del 1971, nel gennaio del 1971, anche se era stata registrata sul finire dell'anno precedente. Questo fu proprio letteralmente un altro grande successo per gli Equals, che raggiunse addirittura la top 10 della classifica inglese dell'epoca, e appunto qui veniva ancora ribadito ancora di più il loro impegno sociale. Infatti, oltre a essere una delle primissime band multirazziali del Regno Unito, questa Black Skin, Blue Eyed Boys è una canzone che è un inno alla diversità e che collegava esplicitamente il suo tema razziale con il sentimento contro la guerra del Vietnam. La canzone è anche conosciuta per annunciare un cambiamento nel suono della band, infatti dal pop rock influenzato dai suoni caraibici che aveva caratterizzato i loro successi iniziali del finire degli anni 60, passarono ad un approccio più politicizzato e con un occhio e una strizzatina d'occhio alla musica funk di oltreoceano. Fu veramente la prima dichiarazione della musica nera britannica riconoscibile, una canzone che si considerava britannica sia nelle parole che nella musica, ma che in realtà era piena e strarifava dell'energia soul e funk di origine nera indigena, di cui Londra era piena in quel periodo, e questa canzone è proprio un po' la sua dichiarazione di indipendenza. 1971, questi sono ancora gli Equals e questa è Black Skin Blue Eyed Boys, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Okay, I'm loosening up now, children. Wow! People, red is white, what's black and clover? Together we'll be, when the war is over. You see the black-skinned, blue-eyed boys, they ain't gonna fight no wars. Oh, now. They ain't got no creed. People won't be black or white. The world won't be outbreed. The world won't be outbreed. The world won't be outbreed. You see them black skin, blue eyed boys. They ain't gonna fight no wars. They ain't got no country. They ain't got no creed. People won't be black or white. The world won't be outbreed. The world won't be outbreed. The world will be outbreed. You see the black skin, blue-eyed boys. They ain't gonna fight no wars. Oh, no. Big questa appunto era la straordinaria Black Skinned Blue Eyed Boys degli Equals, proprio inizio del 1971. E questo era l'ultimo brano per la selezione dei vinili di recupero di Basement Records, quantomeno per stasera. E quindi non posso, come sono un abitudinario, quindi sapete che a fine puntata ricorderò appunto gli appuntamenti di domani con Radio Wombat, domenica inizieranno la mattina con la replica di Lezioni Universali d'Esistenza, che inizierà alle 9, poi il consueto notiziario anticlericale che ci accompagnerà come sempre verso mezzogiorno, all'ora di pranzo, ormai classicissimo appuntamento della domenica di Radio Wombat, poi la replica delle new entry del palinsesto di Radio Wombat, ovvero Random 9. Un carissimo saluto a Andrea e Paolo, appunto i conduttori di Random 9, grandi, grandi ragazzi. Andrà la replica dell'ultima puntata registrata, che è andata in onda, se non sbaglio, mercoledì, e appunto la domenica c'è la loro replica. E per poi si finirà il palinsesto, di Radio Wombat si chiude alle 21:30 con il furto di Trasmissione Altrui. Andatevi a sentire quale furto ci sarà avvenuto domani delle trasmissioni delle radio sorelle, compagne, più che a più ne metta. E quindi non posso fare altro a questo punto di salutarvi, augurarvi un buon proseguo di serata sulle frequenze di Radio Wombat, ma anche proprio di serata in generale. Un buon weekend a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti qui dal vostro Penapoco, e ci risentiremo alla prossima puntata di Basement Records o di Tonight Alive, chi lo sa. Restate sempre aggiornati qua sulle frequenze di Radio Wombat. Buon sabato sera e buon weekend a tutti. Viva Radio Wombat! Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi? Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Bomba. Ascolta Radio Wombat giorno e notte, e il peccato non sarà più un problema.